100% sul problema della collaborazione tra i popoli, ogni prospettiva è stata nuovamente avvolta da un'atmosfera di ostilità. Tuttavia, io voglio ancora credere nella saggezza degli uomini e nella sincerità di quanti affermano di aspirare alla pace. Invece,